Ciao Beppe. C'è da fare un saluto importante. Assolutamente sì, perché so che il nostro presidente del consiglio purtroppo è a casa con l'influenza, quindi vorremmo fargli un bel in bocca al lupo. Pronto? Pronto, eccolo qua. Allora, innanzitutto parlavo di Roberto Ferrari. Sciolgo subito il dubbio. Sciolgo io il dubbio. Grazie, grazie presidente. Ragazzi, ragazzi, che cosa ho passato? Cos'è successo, presidente? 2 giorni sì. D'inferno. Cioè? È un'imprudenza, me l'ha attaccata Vengacci sabato sulla sua barca. E Pres, poi mi chiama Pres lui, no? Pres viene a dormire da me. Ma com'è la barca del Mengacci? È la barca del Mengacci, è un 6 metri. È un 6 metri, tra l'altro è ferma, è ferma perché sono 12 anni che non gli dà l'antivegetativo. Quindi si sviluppa sotto, nelle profondità. Praticamente c'è giù una sequoia, al contrario. È attaccata al fondo del porto. Bravo, bravo. Gli ho detto: Davide, se aspetti altri 2 anni la barca inizia a emergere dall'acqua. Ti ritrovi su un albero praticamente. Allora Roberto, ecco, mi dica. È il tuo presidente che parla, ti volevo chiedere un favore. Se posso, più che volentieri. Innanzitutto acqua in bocca per quella faccenda della tinteggiatura lì a Bucinasco. Perché con i tempi che corrono andiamo nei cazzi. Sì, certo. Okay. Va bene. Ti volevo chiedere un favore, visto che abbiamo un amico in comune, che è l'Angelone. Certo, ci mancherebbe. Te lo dico piano piano. Me lo dica piano piano. Te quanto dai alla IM al mese? Lei non si preoccupa. Sempre meno di lei. Allora, non chiederebbe di fare cambio. No, stacchi l'assegno alla Veronica. No. E io stacco l'assegno per la IM. Dobbiamo prendere la radio. Con 330.000 euro al mese, presidente. Angelone, sì? Pensaci te a darmi conforto. Oggi vieni a casa mia, mi porti un po' di ghiaccioli che ho mal di gola. Va bene? Poi ci sono quelli dell'S lunga, tutti multicolor. A me piace molto quello della Coca-Cola, è il mio preferito. Poi giochiamo alla Play e stiamo su chatroulette.com. Ma non mi dica che anche lei va su queste. Stai attento ai culatoni su chatroulette che è pieno, guarda che se non vieni ti tolgo l'amicizia sul Facebook. A Facebook anche lei? Io ce l'ho naturalmente. Però sto già per cancellare DJ Angelo 1 e DJ Angelo 2, che sono i tuoi. Certo. A proposito, ho scaricato il TomTom per iPhone, come mi hai detto te. Tecnologico, al momento non funziona un cazzo, non so se sono io. No, devo scaricare. Vabbè. Ti dico Ferrari, sì. Ieri sera dovevo andare da Arcole a Bernareggio, sì. Mi sono ritrovato a Monaco di Baviera. Non lo so, però Angelone, si stava meglio quando si usava la vecchia cartina. La vecchia cartina, è tutta città. Esatto, bravo. Io ce l'ho giù uno. Nel bagagliaio dell'Audi A4 che ho, quella di blindata, c'è un tutto città 96. È vecchietto, E quello alto 2,20 che si vede sempre in televisione, quello con le basette lunghe. Lo usa ancora. Manca la tavola di piazzare Corvetto, ma tanto insomma. Vabbè, ci capito. Ragazzi, vi saluto, sarei con voi ora perché sono 2 giorni che non parlo con nessuno. Ah, che bello! Ma è arrivata la perpetua con la capomilla. Bella compagnia. Ferrari, sì, mi dica presidente. Ti inviterò presto ad Arcole per farti pilotare un mio aereo. Oh, che meraviglia, non so se sono ti in grado. Ti faccio, però. Guarda, te lo preparo, ti lascio il carburante solo per il decollo. Io voglio vedere come va a finire. Viene anche lei con me, però. Angelone, va che ieri sera, un'altra magagnuccia, non vorrei rompere le balle. Sì. Ho scaricato il podcast di Javier Zaretti. Certo. E mi è arrivato l'intervento di Andrea Michele. Va come bene. Vai? Adesso vediamo di. Di mettere la bravi comunque. A proposito di calcio, presidente, chi vince lo scudetto? Che domande, ragazzi. Ovviamente è un Milan. Come il Milan? Ma il Milan, ragazzi. Vincere il Milan, scusi. Domenica, anche se la matematica non lo permette, faremo il sorpasso grazie a un principio algebrico scoperto ieri sera dalla Riedo Braida. Quando Galliani è venuto a conoscenza di questo, ha fatto un tic. Un'ora e mezzo. Un tic della testa e del braccio di 1 ora e mezzo. Aspetta ragazzi, ieri sera Galliani per la mezzanotte 20, io stavo male, non so se avevo le convulsioni o cosa, ha fatto ruotare la testa di 360 gradi. Come può essere? Perché abbiamo scoperto. Comunque, bando alle ciance, sì. Angelone, sì. Io e te domenica pomeriggio andiamo a Siena a sostenere la squadra. Scusi, il Milan gioca a San Siro, presidente. Non fare pirla, dai Ferrari, il nostro cuore, eccoli in Siena, amici senesi, abbiamo prestato il nostro inno, sentite un po' qua, dai. Abbiamo prestato Siena, Siena. Ho mal di gola, ragazzi. Un po' di cuore nell'azzurro sotto. Sì, bravi. Ciao belli.